la sveglia ogni mattina è una bestemmia vera. Accanto la mia ragazza, la riconosco appena. Chissà che ho fatto ieri sera. Mi trascino fino in cucina, accendo la caffettiera. La vera bestia nera è che è il primo problema. È quando ti svegli e tra le gambe c'hai l'alzabandiera. Davanti al cesso per far centro c'è chi si barca mena. Ma non riesco, neanche se prendo il tempo sopra un'altalena. Colazione, panza piena, ancora presto l'ansia scema. Al lavoro oggi puntuale, se no il capo mi sistema. Esco col motorino in giro, gente che saluta. Corro in magazzino, Sandrino aspetta la mia venuta. Testa bassa, già dal mattino a pranzo mangerò un panino. Sono tra gli scaffali mentre sogno il mio cuscino. Finisco le 8 ore, raggiunto l'obiettivo. Sono vivo, re 18 fuori, pronto per l'aperitivo. Domani giuro resto a letto, chiudo la sveglia nel cassetto. Domani sì, forse avrò tempo, non chiedo altro che un momento. Domani giuro resto a letto, chiudo la sveglia nel cassetto. Domani sì, forse avrò tempo. La prima è tutta per digerire, la seconda è per gradire, la terza è per progredire, la quarta è tutto un dire. Se restassi saprei già come andrebbe a finire. Meglio che torno a casa, magari scrivo due rime. Ne faccio su una mentre metto su un bel beat. Poi scrivo un pezzo su oggi che è andata così. Su come ogni persona segue una propria routine, ripetuta tutti i giorni, io non voglio sia così. Torno in camera da letto, aspetto il momento perfetto. So che mi picchia diretto se la sveglio troppo presto. Rimango zitto, muto, attento, astuto. Ma anche lei si sveglia e chiede aiuto. Il gol al 90° minuto. Tu hai la parte nelle mani, ma la sveglia sai che aspetta anche domani. C'è polvere sulle bollette ormai da settimane. Non è che non ho i soldi e che voglio farli aspettare. Domani giuro resto a letto, chiudo la sveglia nel cassetto. Domani sì, forse avrò tempo, non chiedo altro che un momento. Domani giuro resto a letto, chiudo la sveglia nel cassetto. Domani sì, forse avrò tempo, non chiedo altro che un momento. Domani giuro resto a letto, chiudo la sveglia nel cassetto. Domani sì, forse avrò tempo.